Buonasera, ciao a tutti. It's a great joy for me to be here with you. È una grande gioia essere qui con voi. I can just sense this, that this house is just so full of faith. Io posso sentire che questa casa è così piena di fede. That you really do believe that your God is great. Che davvero voi credete che il nostro Dio è grandioso. You have done me good just to be here to worship with you. Essere qui ad adorare con voi mi ha fatto bene. And you've just led me right into my preach just by singing that last song, How Great God Is. E l'ultima canzone che abbiamo cantato, che diceva quanto grande è il nostro Dio, introduce benissimo il mio messaggio. Tonight I want to talk to you about not just how big God is. Stasera io voglio parlare non solo di quanto grande è il nostro Dio, but I want to talk to you about the need in your world that everyone understands and sees how big your God is. Ma voglio parlare del bisogno che c'è nel nostro mondo che le persone sappiano quanto grande è il nostro Dio. God is never going to get any bigger. He is maximum big. Dio è al massimo della sua grandezza, non può diventare più grande. But I get the impression that here in Modugno, like at home with me in Vienna, people still manage to miss him. Ma io ho l'impressione che qui a Modugno, come succede anche dove abito io a Vienna, che nonostante quanto grande sia Dio, le persone non lo vedono. And you know, that concerns me. E questo mi preoccupa. That is the call on my life as a missionary sent from England to Austria 32 years ago. E quella è la chiamata nella mia vita in quanto missionaria mandata dall'Inghilterra a Vienna 32 anni fa. To show first of all the Austrians but also any other nation to try and show people how big God is. Dimostrare innanzitutto alle persone che abitano a Vienna, ma poi anche in altre parti, quanto Dio è grande. And I want to help us all this evening just to realize that in this one life that we get to live, we only live once. E io voglio aiutarvi a capire come in questa vita, in quest'unica vita, perché viviamo solo una volta, how we can be a magnifying glass so the world can see God, who he really is. Come noi possiamo essere una lente d'ingrandimento affinché il nostro mondo possa vedere quanto grande Dio. I have a memory of a few years ago as I visited my grandfather for one of the very last times before he went home to heaven. Prima che mio nonno morisse, posso ricordare di quando sono andata a trovarlo, una delle ultime visite. He lived in Plymouth in England and we visited with our three kids. E noi siamo andati nel suo paese in Inghilterra con i nostri tre figli a visitarlo. My granddad was a little man and he was a gardener, but he was a giant in faith. E mio nonno era un uomo di piccola statura, era un giardiniere, ma era un gigante nella fede. And as we visited him for the very first time, as he had his Bible on the kitchen table where it always was. E quindi eravamo lì a visitarlo e la sua Bibbia era aperta sul tavolo della cucina come lo era sempre. And on top of his Bible there was one of these. E sopra la sua Bibbia c'era una di queste. And I said, "Hey granddad, have the letters in your Bible gone smaller?" E io gli ho detto, nonno, che è successo? Le lettere, le parole della tua Bibbia sono diventate più piccole. He said, "Yes, Angela, I don't understand it either, but somehow they've shrunk." E ha detto, sì, io non so come è potuto succedere, ma sì, si sono rimpicciolite. And I can remember our youngest son was about 5 at the time and he'd never seen one of these before. E io posso ricordare uno dei miei tre figli aveva solo 5 anni e per lui era la prima volta, lui non aveva mai visto una lente di ingrandimento. He was fascinated at what this thing does. è nel capire cosa succede usando la lente di ingrandimento, ne rimase affascinato. So he'd got his little tractor and he would then look at it through the magnifying glass. E quindi lì era con il suo piccolo trattore e lo ingrandiva con la lente di ingrandimento. It was an adventure because he was discovering every little detail about the wheels on the tractor. Ed era un'avventura per lui, perché ha incominciato a vedere lo stesso trattore, ma in ogni dettaglio, e le ruote di questo trattore, era qualcosa di nuovo. Do you know, we are a magnifying glass in God's hand so that the world around us can see him. Sapete, noi siamo una lente d'ingrandimento nelle mani di Dio affinché il mondo possa vederlo. And the Bible says a number of things to us how we can practically use our lives to show our world who God is. E la Bibbia ci insegna in diversi modi di come in maniera pratica possiamo essere delle lenti di ingrandimento per Dio. Let's read first in Psalm 34 and the first 10 verses. Leggiamo in Salmo 34 i primi 10 versi. Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore. Gli umili l'udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Did you notice what verse 4 said? Avete notato che cosa c'è scritto nel verso 4? Oh, magnify the Lord with me. Oh, celebrate il Signore, esaltiamo il suo nome insieme. This word to magnify is exactly the same word in English and the root word we use for a magnifying glass. Questa parola, esaltare, corrisponde proprio alla stessa parola che noi in italiano usiamo quando parliamo di ingrandire. And I'm sure you've heard this psalm quoted to encourage you in the context of a service to give yourself to praise and worship. E io sono certa che avete sentito queste parole in diverse occasioni come un incoraggiamento a adorare Dio. And that's great. That's one exaltation that we can bring through our songs and our praise and worship. E questo è meraviglioso, è un'esortazione che ci porta ad adorare Dio. But I believe there's more to this thought than just as we're gathered in worship through our singing. Ma penso che ci sia molto di più se non solo quello che concerne l'adorazione. Because if you think about your life until next Sunday evening, when I hope you'll be here again. Perché se tu ponessi attenzione, pensassi alla tua vita e a come ti ritroveresti la settimana prossima qui. The 2 hours that you're here today is a very small proportion of your life. Le 2 ore che passiamo qui in chiesa è una piccola porzione della nostra intera vita. And so I believe that worship, making God great, has a lot to do with our life on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. E quindi io credo che l'adorazione ed esaltare il nostro Dio ha a che vedere con quello che facciamo il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì. Do you know there's a lady in the Bible who really understood this? Sapete, c'è una donna nella Bibbia che aveva davvero compreso questo. A very wonderful woman. Una donna meravigliosa. And we can read about her, we will hear about her now in Luke chapter 1. E noi possiamo conoscerla e leggeremo di lei nel capitolo primo di Luca. Verse 46 to 49. Dal verso 46 al 49. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome. Maria wasn't in a service worshiping with other people. Maria non si trovava in chiesa ad adorare con altre persone. She just had the shock of her life as an angel appeared to her and told her she was carrying the Savior of the world. Era appena stata scioccata come mai prima d'ora nella sua vita dall'apparizione di un angelo che le ha detto che avrebbe portato in grembo il Salvatore. She didn't know if she was standing on her feet or on her head. Lei non riusciva a riconoscere se stava in piedi o era a testa in giù, tanto era lo shock. And in the midst of this, these beautiful words come out of her mouth. E nel mezzo di tutto questo, queste parole meravigliose escono dalla sua bocca. My soul will magnify the Lord. La mia anima magnificherà il Signore. Let's just look at this word to magnify. Okay, cerchiamo di analizzare questa parola, magnificare. It's to seemingly make something bigger. È rendere qualcosa più grande. Another word we could use would be to exaggerate something. Un sinonimo potrebbe essere quello di esagerare qualcosa. Or of course to glorify and praise something. O di glorificare, lodare, dare apprezzamenti. If we look at the root word in the Hebrew, the root word is gadal. Se vediamo la radice in ebraico, la radice, la parola è gadal. And you know this means to enlarge. E questo significa proprio rendere più grande, estendere. But it also could mean to promote. Ma potrebbe anche dire promuovere. It means to be proud of. Vuol dire essere orgogliosi di qualcosa o di qualcuno. To show something off or to brag about it. Di vantarsi di qualcosa. Are you beginning to get a feeling for this word? Stiamo incominciando a capire le varie sfumature di questa parola? And so of course then in the New Testament written in Greek it's the word megaluno. E invece in greco nel Nuovo Testamento la parola originale è megaluno. But it's the same meaning to make great, to increase. E ha lo stesso significato di rendere grandi, di accrescere. Or also to make known. Ma anche di far conoscere, di rendere noto. So we've said traditionally this would be an exaltation to us in a worship service. Quindi tradizionalmente questo lo usiamo come un'esortazione durante l'adorazione. We experience the effect of it this evening. E noi abbiamo avuto proprio esperienza di questo questa sera. What was happening to us as we continued to sing how great God is? Che cosa stava succedendo in noi mentre continuamente cantavamo di quanto grande è Dio? Worries and circumstances and situations that had been weighing heavily on us. Circostanze, problemi, preoccupazioni che ci appesantivano. Began to get lighter as we just felt as if God was growing before our very eyes. Hanno incominciato ad alleggerirsi perché è come perché Dio stava ingrandendosi nella nostra adorazione. God is maximum big. He can't grow any larger. Ora Dio non può diventare più grande. Lui è grande già al 100%. But before our eyes, as if we were seeing him through a magnifying glass, he exploded in greatness. ma davanti ai nostri occhi, come se lo stessimo guardando attraverso una lente di ingrandimento, la sua grandezza sembrava esplodere. All of a sudden we were reminded of the just precious details of who God is. E quindi tutto ad un tratto siamo stati ricordati di tutti quei dettagli di quanto è grande il Signore. He's our healer. Che è il nostro guaritore. He's our faithful father. Il nostro padre così fedele. You know, many of us have known that for decades. Molti di noi conoscono questa verità da decenni. But we forget. Ma ce ne dimentichiamo. Life just bombards us with other perspectives, and we need to magnify his name to realize again how great he is. Perché la vita ci bombarda con altre prospettive, che è così importante che noi ricordiamo a noi stessi di quanto grande è Dio. So we were singing how great is God. Who were we promoting God to? Ora, quindi noi stavamo cantando di quanto grande è Dio. La domanda è: per chi stavamo promuovendo Dio? Well, of course, for us and for everyone who was here. E certo, lo stavamo facendo per noi e per tutte le persone attorno a noi. Well, that's pretty amazing. That's good. E questo è meraviglioso, è buono. And of course, there's a spiritual world, negative and positive, and that was being influenced. E chiaramente viviamo in un mondo spirituale, positivo e negativo, e quel mondo è stato influenzato dalla nostra adorazione. There were probably some angels around partying with us. Probabilmente c'era qualche angelo a fare festa, a celebrare insieme a noi. But the work colleague that you're going to meet tomorrow morning when you walk into the office, he didn't get too much of the influence of what was going on here. Ma il tuo collega di lavoro che incontrerai domani mattina non ha sperimentato granché di quello che invece noi abbiamo sperimentato stasera insieme. I mean, he might have the joy of seeing you in a good mood on Monday morning. That's a plus. Probabilmente avrà la gioia di vederti di lunedì mattina di buon umore, e questo è buono, è un bonus. If it's so important that we are magnifying the name of God, I somehow think it's important for God that the world gets to feel this. Ma se è così tanto importante che noi magnifichiamo il nome di Dio, io credo che sia altrettanto importante che il mondo nel quale viviamo comprenda quanto è grande questo nostro Dio. And so I'm here to say, precious church, you keep singing on Sundays, please. E quindi io vi dico, chiesa preziosa, continua ad adorare, a cantare Dio la domenica sera. It's gonna set things free in your life and in the atmosphere. Perché porterà liberazione nella tua vita e nell'atmosfera attorno a te. But I'm here to say God has put a plan and a destiny in our lives, and that is that our lives magnify him every day between Sunday to Sunday. Ma io sono qui per dirvi che Dio ha messo un piano e ha un obiettivo con la nostra vita, ed è quello che il suo nome sia magnificato da noi dal lunedì al sabato. God wants to be made visible to the world. Dio vuole essere reso noto al mondo. And he's gonna do it most times through you and I. E questo succederà per la maggior parte delle volte attraverso di me e attraverso di te. And he wants to use your life to show your world who and how he really is. E lui vuole usarsi di te per mostrare al tuo mondo chi è lui e che cosa lui fa. He wants you to show off every wonderful detail about him. Lui vuole che tu ti vanti di ogni dettaglio di God, who is so attractive and relevant. He wants you to brag about him. Dio che è così attraente, così meraviglioso, lui vuole che tu ti vanti, che sia orgoglioso di lui. Oh, I know, we don't brag, you know, that has to do with being proud. Lo sappiamo, noi non è buono vantarsi perché ha a che vedere con l'essere orgogliosi. But I tell you what, there's one person we're allowed to brag about. Ma io vi dico che c'è una persona della quale ci possiamo vantare. And that's our God. E questo è il nostro Dio. And the world needs to be shown who God is. E il mondo ha bisogno di sapere chi Dio è. It's almost incredible to think God, who is so great, and yet so many people still manage to miss him. È incredibile pensare che Gesù, che Dio sia così grande e nonostante questo molte persone non lo conoscono, lo perdono. And it's not because God doesn't want to be found. E non è perché Dio non vuole essere trovato. He's not hiding from anyone. Dio non si sta nascondendo da nessuno. And the world is not purposely looking away from him. E il mondo non lo sta facendo apposta a non vederlo. But not people, we have not yet magnified him in the eyes of our friends so that they can recognize him. Ma il fatto è che noi non abbiamo magnificato e reso grande Dio abbastanza affinché i nostri amici lo possano vedere. We have access to the most precious commodity in this world. It's an economic term that we would say it's the most precious goods. Noi abbiamo accesso al benessere più alto. Excuse me for using a term about God that is not as personal as maybe we're used to. Mi dispiace usare un termine che non siamo molto spesso abituati ad attribuire a Dio. But I want to help us all to understand we have a product. Let's use that word for now. Quindi permettetemi questa analogia. Noi abbiamo questo prodotto. It's called Jesus and salvation and eternal life. E si chiama Gesù, si chiama salvezza, si chiama vita eterna. It is the most marketable product to meet every need in our world. Ed è il prodotto più eccellente, più efficace, che risponde a tutti i bisogni del nostro mondo. And our job is to be the biggest promoters ever. E il nostro lavoro è quello di essere i promotori più efficaci e zelanti di questo prodotto. Psalm David was saying. Magnify, promote the name of the Lord with me. Ed è proprio quello che Davide nel Salmo 34 stava dicendo. Rendi grande, magnifica, promuovi quanto Dio è grande. Just in case you need to be helped to understand just how awesome this product is. E solo nel caso avessimo bisogno proprio di un aiuto extra per comprendere quanto è meraviglioso e straordinario questo prodotto, we have been given a gift of the highest ever quality in the salvation in Jesus. A noi è stato dato il regalo della qualità più eccellente da parte di Gesù. And just to take away maybe any shyness that you might have to sign up to promote him. E giusto per eliminare ogni incertezza, ogni timidezza che possiamo avere nel promuovere questo prodotto. God has no problem whatsoever with the strictest of strict quality control. Dio non ha alcun problema nell'avere a che fare con il controllo qualità dei più severi. You know, I often, well not often, but I sometimes say to people, you know, I do my best, but don't look too closely. Io spesso dico alle persone, guarda, io faccio del mio meglio, ma non guardarmi troppo da vicino. You know, I need a lot of sleep. Sapete, io ho bisogno proprio di molte ore di sonno. It's just in my DNA. È nel mio DNA, è come sono fatta. I've had arguments with God about it for years. Ho avuto diverse discussioni con Dio riguardo a questo per tanti anni. I've blamed my parents. Do la colpa ai miei genitori. I've compared myself to my husband. Mi metto sempre a paragone con mio marito. But it's just a fact. Ma è così, è la realtà. And if I'm tired, you just don't want to meet me. I promise you. E se sono stanca, tu proprio non vuoi incontrarmi, te lo assicuro. You know, I've learned after 50 years just to tell people I'm tired, just don't come too close. E dopo 50 anni io ho imparato semplicemente a dire alle persone, guarda, sono stanca, non ti avvicinare troppo. Do you know what? God doesn't sleep. Sapete la realtà qual è? Che Dio non dorme. He doesn't get tired. Lui non si stanca. He doesn't have bad Monday mornings. A lui non capitano i lunedì difficili. He is just the real deal, and he says, anyone can come and check me out into detail anytime. Lui è disponibile al 100%, 24 ore su 24, ed è per tutti, sempre. Maybe you know that little Bible verse, another psalm, where it says, taste and see that I'm good, just test me. Sappiamo bene il versetto nel Salmo che dice provate e gustate quanto sono buono. And he will pass every test. E ogni controllo qualità lui lo passa. You know, in Vienna we have a lot of very well educated people. Sapete, a Vienna ci sono e conosciamo tantissime persone che hanno un alto livello di istruzione. It's just part of the culture in Austria that when you introduce yourself, you introduce yourself with your title in front of your name or the letters you have behind your name. Ed è parte della cultura in Austria, a Vienna, che quando tu ti presenti a qualcuno, la prima cosa che dici, prima ancora del tuo nome, è il tuo titolo di studi o titolo di lavoro. And I don't have a title in front of my name and I don't have letters after my name. E io non ho un titolo che va davanti al mio nome, non mi presento come dottoressa Angela. I grew up on a farm in a little tiny place in England called Cornwall. Io sono nata in un piccolo paese in Inghilterra e ho vissuto in una fattoria. I have experience with things like milking cows and driving a tractor. E io ho diverse esperienze nel mungere una mucca o nel guidare un trattore. But you know, in the very beautiful city of Vienna, that doesn't count very much. Sapete, questo non conta tantissimo come esperienza di vita a Vienna. But I know what it is to have been called of God when I was just 17 to give my life to serve him in Christian ministry. Ma io so che cosa significa essere chiamati da Dio, e l'ho saputo dall'età di 17 anni quando lui mi ha chiamata come missionaria. Where I gave my life in a very simple way and said, God, you can use me. Ve io ho dato la mia vita a Dio in un modo molto molto semplice e gli ho detto, io sono qui, usati di me. And I've had the joy over the last 32 years in Austria to lead numerous very well educated people to the cross of Jesus. E io ho avuto l'onore negli ultimi 32 anni di guidare a conoscenza la croce di Cristo persone con livelli di istruzione molto alti. In my simple way I've just told them who my Savior is and how real he is. A modo mio, in una maniera molto semplice, ho detto ad ognuna di queste persone chi è il mio Dio e come lui può salvare. And he has passed every test that these very clever people have put him to. E lui ha passato ogni controllo che ognuna di queste persone avrebbe potuto metterli davanti. We can be so bold in our promotion of Jesus. Noi possiamo andare proprio sicuri e possiamo essere certi e coraggiosi nel nostro promuovere chi Gesù è. He goes with a guarantee of authenticity. Lui ha la garanzia di autenticità. He is reliable like no one else in this world. Ci si può fidare di lui come di nessun altro al mondo. He has no expiry date or sell-by date. Lui non ha una data di scadenza. God and the message of the cross is the real deal today and it will be forever. Dio e il suo messaggio di salvezza è l'occasione, è il prodotto per eccellenza. He's not a substitute, a copy or a replica. Non è un sostituto, non è una copia di qualcuno, non è né tantomeno una replica di qualcosa. I'm just reminding us. E io ce lo sto solo ricordando. So that we can live our lives as a magnifying glass. So that people in our world can see Jesus. Così che noi possiamo usare le nostre vite come fosse una lente di ingrandimento per mostrare alle persone attorno a noi chi è Dio. When we promote Jesus, we run no risk of being let down. Perché quando noi promuoviamo Gesù, non corriamo alcun rischio di rimanere delusi. So your life, living your life following Jesus, should be showing God in various details to your world. Quindi il tuo vivere Gesù dovrebbe essere un continuo mostrare ogni dettaglio di chi Gesù è a chi ti sta attorno. By moving in the supernatural is another way that we can promote the name of Jesus. E parlando del supernaturale c'è un altro modo attraverso il quale noi possiamo magnificare Gesù. That means being so connected to heaven that we can hear the voice of the Father to be the voice of the Father. Si traduce nell'essere così connesso al cielo, connesso con Dio e ascoltare direttamente la sua voce, così da poter essere un canale. Miracles glorify Jesus. I miracoli glorificano Gesù. Miracles were everyday occurrences in the life of Jesus and we can live that way too. Quando nella vita di Gesù vediamo che i miracoli erano parte della quotidianità e noi possiamo vivere allo stesso modo. The apostles after the death of Jesus, they lived in that power and it speaks of it in Acts 19, they magnified the name of the Lord. Gli apostoli dopo la morte di Gesù, loro vivevano in quella potenza e possiamo leggere di questo in Atti 19. Let's read that, Acts 19, 11 to 20. Atti 19, dal versetto 11 al versetto 20. Leggiamo insieme. Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei gembriuli che erano stati sul suo corpo e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni dicendo: io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia. Quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, ebreo, capo sacerdote. Ma lo spirito maligno rispose loro: conosco Gesù e so che è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su due di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa, nudi e feriti. Questo fatto fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano ad Efeso e tutti furono presi da timore e il nome del Signore Gesù era esaltato. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti. E calcolatone il prezzo, trovarono che era di 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Did you notice what it said? Avete visto che cosa c'è scritto? That the fear of God fell upon the people and the name of the Lord was magnified. Che le persone erano prese da timore del Signore e il suo nome era magnificato. Praying for the sick, seeing people delivered from demons was the ministry of Jesus which he has now given to us. Pregare per i malati, pregare per la liberazione degli oppressi, era il ministero di Gesù. Quel ministero adesso è stato passato ad ognuno di noi. Being the voice of God on this earth was what Jesus did and what we are called to do, to magnify the name of God. Gesù era la voce di Dio sulla terra e quella voce adesso possiamo e dobbiamo essere noi nel magnificare chi è questo Dio. I know that sometimes fear can grip us when we think, well, what if I pray and nothing happens? E io lo so che spesso la paura ci può trattenere, il pensiero che ci dice, ma se prego e niente succede. Do you know, sometimes the fear of failure just grips us and prevents us from being the greatest promoters of the name of Jesus. Sapete, la paura di fallire spesso è così forte che ci trattiene e ci impedisce di essere coloro che magnificano Dio. Or the fear of rejection. Maybe when I speak to people they would just reject me. O quella paura del rigetto, di essere rigettati. O forse se parlo a qualcuno, quel qualcuno mi può rigettare, mi può rifiutare. Or the fear of what people think about me. O la paura di quello che le persone possono pensare di me. God says that he has not given us a spirit of fear. Dio dice che lui non ci ha dato uno spirito di paura. He's given us a spirit of love, of power and of a sound mind. Ma Dio ci ha dato uno spirito di amore, di potenza e di autocontrollo. And you know, I think we can be really cheeky, almost rude about walking into enemy territory and showing who God really is. E noi possiamo essere così coraggiosi, quasi al limite della maleducazione, di entrare nei territori del nemico e di mostrare chi è Dio. You might have heard Johnny tell you that we do this in Vienna at a New Age festival. Forse avete ascoltato Gianni raccontarvelo, quello che noi facciamo a Vienna nel Festival New Age. For years we prayed against this festival and it got bigger and bigger. Per anni abbiamo pregato contro questo festival e di anno in anno non faceva altro che ingrandirsi. It's the largest New Age festival in Europe. E si tratta del Festival New Age più grande in Europa. So you must understand there are the witches and the wizards and the crystal balls and all the weirdest stuff you can imagine. Ed è non è altro che il ritrovo di streghe, di stregoni, di coloro che leggono il futuro. Sono riuniti tutti lì. And we've decided for the last few years that we are just going to have the biggest stand in the middle of this festival. From Life Church. E noi abbiamo deciso negli ultimi anni che in quel festival avremmo avuto il palco più grande rispetto a tutti quelli che ci sono normalmente, proprio lì, nel bel mezzo del festival. And we just put in big letters, Jesus sets you free. The Holy Spirit is the true power. E sul nostro palchetto noi abbiamo messo in grandi lettere Gesù salva. sets you free. Gesù ti libera. And the Holy Spirit is the true power. E lo Spirito Santo è la vera potenza. And we offer prayer to interpret dreams and to hear from heaven. E noi offriamo proprio, preghiamo per le persone per interpretare i sogni, chiedendo l'intervento dall'alto. Do you know we see more miracles in those three days in November on this stand than we see in a whole year in our church? E sapete, a novembre, quando c'è stato questo festival, abbiamo visto il numero più alto di salvezze di quanto non abbiamo visto durante tutto l'anno scorso. Because it's as if God, in His majesty and His power, just wants to show this crazy world who He really is. Perché è Dio che vuole mostrare quanto Lui è grande a questo mondo che è al limite della pazzia. Do you know the place where we need to be believing for miracles is not here in the church, but out there in our world. Sapete, il posto dove noi siamo chiamati a credere, a pregare per miracoli, non è qui, non è nella nostra chiesa, ma è fuori, è nel nostro mondo. You know, I'm together with my husband, the senior pastors of the Life Church in Vienna and of the national network of churches in Austria. Io insieme a mio marito siamo pastori della nostra chiesa Life Church a Vienna, ma anche di tutto il movimento in Austria. And so I spend a lot of time amongst Christians, and I love it. I love to be a pastor. E quindi io trascorro tanto tempo attorniata da credenti e mi piace. So I have to really consciously look for opportunities to touch the world. E quindi io devo intenzionalmente cercare delle opportunità per entrare in contatto con il mondo fuori. And that's usually when I do my food shopping. E spesso succede proprio quando durante faccio la spesa. So I'm rushing through the supermarket with my trolley. E quindi sono lì con il carrello tra i corridoi del supermercato. And then I get to the till and usually there's a queue. E poi arrivo alla cassa e di solito c'è la fila. I don't stand still very much in life. E io, a me non piace stare ferma per a lungo, in generale nella vita. But at the queue at the till I have to stop and stand and wait. Ma alla cassa se c'è la fila e devo fermarmi e devo aspettare. And a few months ago I had an idea and I think it was from heaven. E quindi qualche mese fa ho avuto questa idea e credo fosse ispirata da Dio. And I've trained myself now when I'm in the queue at the till I ask God if he has a message for the person who's working on the till. E quindi ogni volta adesso che sono lì ferma in fila, chiedo a Dio se lui ha un messaggio che io posso dare alle persone che mi circondano da parte sua. And I've usually got a few seconds or a couple of minutes just to listen in. E spesso mi prendo qualche secondo, qualche minuto proprio per ascoltare quello che Dio mi vuole dire. And do you know what? E sapete cosa succede? I think God loves in a very special way people who work on the tills in the supermarket. Io credo che Dio ami in una maniera proprio particolare chi lavora alla cassa dei supermercati. Because when I ask him if he wants to tell them something, he's always got something up his sleeve. Perché sempre quando gli chiedo se ha qualche messaggio per la cassiera, non c'è una volta che non ce l'ha, mi dà sempre qualcosa da condividere con loro. Oh, okay, maybe it's because I've decided to take the opportunity to make his name great and they're the people I'm aiming at. E vabbè, forse è perché ho deciso di essere una lente di ingrandimento per Dio, ho deciso di parlare con loro e le cassiere sono le persone alle quali voglio le persone che voglio influenzare. So I don't say all kind of weird spooky stuff. E non dico cose incomprensibili che magari potrebbero destare spavento. Sometimes I just say that they've got a great hairstyle today and that I think they're destined to have a really good week. Alcune volte io semplicemente dico che hanno dei capelli meravigliosi e che sono destinate ad avere una settimana meravigliosa. But sometimes God really gives me some unique, interesting details about the people. Ma altre volte il Signore proprio mi dà dei messaggi specifici per queste persone. Like, oh, I was thinking at your age you might have a teenage daughter, and that's tough with a teenage daughter, isn't it? But I think you're destined to manage that situation amazingly. Per esempio, dico cose del tipo, penso di sapere la tua età, probabilmente in base alla tua età hai una figlia adolescente ed è difficile avere a che fare con le adolescenti, ma io credo che tu sei destinata a gestire al meglio la tua situazione con tua figlia. You say, well, you didn't even mention Jesus, Angela. E tu puoi dire, vabbè, ma non è neanche citato, nominato Gesù. You didn't even say a holy word. Non hai neanche detto una parola santa. Well, she smiled. Beh, lei ha sorriso. I think it encouraged her. Io penso che quella parola sia stata un incoraggiamento per lei. I think that probably reflects the heart of God. Io credo che quello proprio riflette alla grande il carattere di Dio. And I'm still learning on this journey, so I'm open if he gives me more specific stuff. Ed è chiaro, io sono nel percorso, sto ancora imparando e sono aperta a suggerimenti. Because I want my life to be a magnifying glass that everyone I meet can see a little bit more of God through me. Perché io voglio che la mia vita sia una lente d'ingrandimento, così che tutte le persone attorno a me possano capire un po' di più di quanto è grande Dio. David said, "Come, let's magnify the Lord together." Davide dice, "Venite, esaltiamo Dio tutti insieme." Barry needs to know your God. E Barry necessita di conoscere chi è Dio. Your world is longing to see who God really is. Il vostro mondo, il nostro mondo sta aspettando, ha bisogno di capire chi è Dio. Let's determine tonight that the fear of man, the fear of failure, and the fear of rejection is not going to hold us back. E quindi decidiamo oggi che la paura di cosa possa pensare l'uomo, la paura del rigetto, la paura del fallimento non ci tratterrà. The real deal that is Jesus and his salvation is worth promoting with every bit of our breath in our body. Perché Gesù e la sua salvezza deve essere promossa da ognuno di noi. I would love to pray for you. E io vorrei pregare per voi. Would it be okay if you stand up just so that I can just bless you with courage? Ci possiamo alzare così che io possa pregare, vi possa benedire per avere coraggio. I thank you, Father, for my precious friends here in Modugno. E io ti ringrazio, Padre, per questi miei amici preziosi qui a Modugno. Father God, we love you and we believe you are just so big. E Padre, noi ti amiamo e noi sappiamo che tu sei così grande. And Father, we just believe that your love for every person in our world is immeasurable. E noi sappiamo e crediamo che il tuo amore per questo mondo è grande, è senza fine. And Father, we give our lives today so that we can show our world who you are. E noi vogliamo dare oggi la nostra vita così che possiamo mostrare chi tu sei al nostro mondo. I thank you, Father, that you have not given us a spirit of fear. Io ti ringrazio, Padre, perché tu non ci hai dato uno spirito di paura. But we receive now a spirit of power. Ma noi riceviamo adesso uno spirito di forza. A spirit of love. Uno spirito d'amore. A spirit of a sound mind, e uno spirito di autocontrollo. controllo per fare buone, giuste decisioni. And we decide now that we're going to live our lives as a magnifying glass to make your name great. E noi decidiamo oggi di vivere le nostre vite come una lente di ingrandimento per magnificare il tuo nome. Amen. Amen.